Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su Controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno! Prima puntata della trasmissione Restiamo Animali in questo nuovo anno. Il nostro augurio è naturalmente quello di agire il cambiamento, usare il potere che abbiamo e che nessuno può toglierci, che è quello delle nostre scelte quotidiane, dove possiamo essere consumatori critici, consumatori cruelty free. Auguriamoci che il 2013 contribuisca alla nostra consapevolezza. Un'altra tappa importante nel percorso collettivo verso scelte quotidiane cruelty free. Siamo sempre più convinti e convinte che questa sia la scelta più liberatoria, etica ed ecologica che si possa fare nel corso di una vita. In studio oggi con voi Camilla Lattanzi, Lorenzo Guadagnucci, Silvia Vallecchi e Valentina Reggioli. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Particolare che farà piacere a tutti gli amanti dei gatti. La vicenda del nostro gatto Ricky, un gatto rosso di circa un anno e mezzo che abbiamo perso, nel senso che si è allontanato da casa a metà settembre. Lo abbiamo cercato in lungo e largo, abbiamo attaccato locandine, come si fa in questi casi, in negozi di cibo per animali, veterinari, per strada, farmacie, cercando di tappezzare tutta la zona. Abbiamo perlustrato tutto il vicinato, strade, cantine, giardini. Abbiamo fatto aprire anche una cantina dai pompieri, ma di Ricky non c'era traccia. Dopo 3 mesi sembrava molto molto difficile riuscire a ritrovare questo gatto, che pur aveva qualche segno di riconoscimento abbastanza preciso, perché avendo avuto un herpes aveva e ha uno sguardo un po' opaco, gli occhi un po' irregolari. È un gatto che ha avuto una vita un po' difficile, lo abbiamo preso a Brindisi addirittura da una gattara che aveva lanciato un appello qualche mese fa di questo gatto in condizioni molto brutte. Era veramente quasi impossibile da guardare, aveva gli occhi chiusi, coperto di croste, un herpes e una rogna molto forte. Avevamo dato un contributo a Antonella perché curasse questo gatto Ricky, con la promessa che se si fosse salvato l'avremmo preso, cosa che è accaduta nel gennaio del 2012. E comunque la sorpresa è stata quando a metà dicembre è arrivata una telefonata da parte di Lucia che diceva di avere trovato Ricky, di essere sicura che fosse lui e quindi di andare immediatamente a prenderlo, cosa che effettivamente è avvenuta. Quindi dopo 3 mesi, questa è la notizia, abbiamo ritrovato Ricky con grande nostra gioia e grande sorpresa, e ovviamente il merito è in larga misura di Ricky, che ha sopravvissuto per 3 mesi, o perlomeno per 2 mesi prima che Lucia lo trovasse. Lucia ha trovato questo gatto a circa 4-5 km da casa nostra, quindi un percorso anche lungo, con strade, un fiume anche da attraversare. C'è un po' l'interrogativo di come ci sia arrivato. Ma Lucia, raccontaci come hai visto Ricky, quando l'hai trovato. Siamo a domenica, era il 25 di novembre, perché poi segno tutto sull'agenda dei gatti, se no poi perdo il conto, che io ho tanti gatti, mi occupo di gatti, insomma ho una trentina di gatti, e soprattutto ho l'occhio attento, diciamo, quando vedo dei gatti vaganti o insomma subito mi preoccupo, oddio. Quindi vedere la sera tardi questo gatto che camminava sul ciglio della strada, direi in maniera come se lui in fondo sapesse di tenere la traiettoria del ciglio della strada e non entrare in strada. Comunque, allora, sono andata avanti e naturalmente con il punto interrogativo dicendo: ma ho questo gatto, che fa? Sicché giù, in versione AU subito, sono andata nel parcheggio sottostante, perché era già le prime salite verso Mosciano, il parcheggio davanti alla pizzeria Anastasia, e mi sono fermata lì subito tirando fuori gabbia e scatoletta che porto sempre in macchina, e lo vedevo che lui scendeva lentamente la strada sempre sul ciglio, finché poi l'ho chiamato e lui è venuto, è entrato in questo spiazzo un pochino titubante, ma insomma si vedeva che era un gatto poi non selvatico, ecco. Quindi vedendo che era come pensavo, ovvero che mi sembrava un gatto cieco o semi-cieco, insomma non ciechissimo ma cieco abbastanza, e quindi l'ho subito infilato in gabbia e niente, e l'ho portato in casa, e maledicendo la sorte che mi portava a raccattare tutti i gatti che trovavo, e quindi aumentare il numero. Lui faceva dei grandi urli appena vedeva un altro gatto. All'inizio infatti ho avuto paura, ho detto non ci riuscirò mai perché questo è aggressivo, invece in realtà lui faceva questi grandi urli ma non era aggressivo. Come sei arrivata al mio numero di telefono? Perché dopo 3 mesi dalla scomparsa di Ricky era quasi un'impresa. Infatti io ho chiesto lì all'Anastasia il giorno dopo, che c'è una serra, c'è una casa, ho chiesto, dico, ma avete un gatto rosso, sapete di un gatto rosso sperso, così, e nessuno sapeva nulla. E quindi nulla, io non ho fatto volantini io, per dire ho trovato un gatto rosso, non avevo tempo, ho detto vabbè lo tengo, e tanto mi sembrava anche appunto di facile introduzione nella mia famiglia, diciamo, dei gatti, quindi vabbè. Poi camminando proprio scevra da ogni pensiero di Ricky, ormai era diventato della famiglia, vedo questo volantino camminando via le Talenti all'entrata del negozio Bau Bau Micio Micio, del negozio per animali, insomma vedo, mi avvicino e vedo sta locandina strappata, però che la foto è lui. E nella locandina strappata si intravedeva anche scritto zona Firenze Soffiano. Allora sono andata dai veterinari e ci sono a Soffiano il Grandi e il Bonjat, e naturalmente dal Grandi c'era la locandina con numeri di telefono e tutto. E quindi, come faccio sempre, non è che ho detto telefono subito, ho trovato il vostro gatto, no, non lo faccio, perché non si sa mai che tipo di persone ci sono dall'altra parte. Sicché appunto poi il giorno dopo, no, la sera, siccome ero un pochino anche emozionata, allora ho fatto la fatidica telefonata dicendo: salve, non è che voi avete perso un gatto rosso, perché mi è parso di vederlo. E quindi sono rimasta sul vago. Poi la mattina dopo ho rifatto la telefonata dicendo: scusate, ma mi è parso proprio di vederlo questo gatto, è sicuramente lui, che mi sembra di averlo visto qui dove abito io, nella zona Marciola, venite su a vedere se vi sembra. Insomma, avevo fatto sta manfrina per essere sicura che le persone fossero davvero interessate. Sì, sono arrivato io, che ovviamente non aspettavo altro che di ricevere una telefonata del genere, alla quale ormai quasi disperavamo, anche se non avevo mai tolto dal salvaschermo del telefonino la foto di Ricky, perché comunque ero sicuro che non fosse morto e che quindi da qualche parte se la fosse cavata. Resta il mistero di come Ricky abbia affrontato i 2 mesi che sono passati da quando l'abbiamo smarrito a quando Lucia l'ha ritrovato, e anche come sia arrivato in quel posto, appunto a diversi chilometri da casa nostra. Comunque il messaggio che arriva da questa vicenda è che non bisogna mai disperare, che i gatti hanno mille risorse, che può passare anche molto tempo, ma è possibile avere sempre una speranza e la possibilità di ritrovarlo. Porta la carta e finisce in gloria, chiama i ricordi col loro nome. Porta la carta e finisce in gloria. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Tra il 5 e il 6 di gennaio, la tradizione italiana vuole che una vecchia, non avvenentissima, con il fazzoletto in testa e lo scialle all'uncinetto sulle spalle, volando a bordo di una scopa, faccia visita ai bambini per riempire le calze, lasciate dai bambini stessi appositamente appese sul camino o vicino a una finestra. La tradizione vorrebbe anche che alla Befana venisse lasciato un piccolo ristoro, un mandarino, qualche cipollina sotto aceto, un bicchiere di vino rosso. Non sto a dire cosa le viene lasciato in case abitate da onnivori impenitenti. Se i bambini sono stati buoni, il contenuto delle calze sarà composto da caramelle e cioccolatini, mandarini, noci, frutta secca, piccoli regali. In caso contrario, conterranno del durissimo carbone. La redazione di Restiamo Animali e in particolare la nostra Valentina Reggioli, la più giovane del gruppo, ancora memore delle ultime calze ricevute, ha fatto le bucce anche alla Befana e vi segnala come riuscire, ormai per l'anno venturo, a organizzare calze cruelty free. Tendini, legamenti, ossa, cartilagini non sono gli ingredienti per una pozione da strega, ma i componenti delle caramelle gommose che tanto ci piace ricevere nelle calze della Befana. Le gelatine animali si ottengono per idrolisi del collagene, che è una proteina componente principale del tessuto connettivo degli animali e che si ricava principalmente dalla pelle di maiali e di altri animali da allevamento. Usi non alimentari possono richiedere un procedimento più costoso che estrae la gelatina direttamente dalle ossa. Più di recente l'industria si sta muovendo verso le gelatine di pesce. In sostanza la gelatina alimentare, indicata spesso con la sigla E441, è una sorta di brodo condensato, prodotto con collagene animale derivante da cotenne di maiali e da cartilagini. Nella produzione europea gli ingredienti di base sono le cotenne di maiale per il 60% e fino al 40% di bifido di bovino, in sostanza lo strato intermedio della pelle del bovino. Per l'eventuale quota rimanente vengono usate prevalentemente ossa di maiale. Una variante di questa gelatina è, come si diceva, la colla di pesce, che si ottiene aggiungendo al brodo animale sopra descritto una sostanza derivata dalla lavorazione della vescica natatoria dei pesci stessi. Tra gli ingredienti di prodotti da forno dolciumi, ad esempio in alcuni tipi di caramelle e gelée, queste sostanze sono spesso indicate generalmente come gelatina, gelatina alimentare. Per questo, sebbene esistano anche gelatine vegetali quale pectina e agar agar, è bene evitare quegli alimenti che ne contengono, a meno che non sia indicato in modo specifico che si tratti di una gelatina vegetale e o che il prodotto in questione sia dichiarato suitable for vegans, cioè adatto ai vegani. Occhio anche allo stearato. Si trova di solito in forme di stearato di calcio ed è usato nelle caramelle dure. Deriva dall'acido stearico che viene di solito estratto da sego o da grasso animale. Poi ci sono le gomme da masticare. La maggior parte di esse elenca fra gli ingredienti gomma base, celando che essa può contenere lanolina e glicerina, tutte sostanze potenzialmente di origine animale. Dolci tradizionali quali torrone, torroncini, eccetera, possono contenere, oltre miele e uova, anche gelatine, anch'essa potenzialmente animale. Attenzione anche ai dolcetti rossi perché contengono cocciniglia. La cocciniglia è una sostanza colorante rosso, appunto, derivante dal corpo essiccato di un insetto messicano, il Dactylopius coccus. Miliardi di questi insetti sono allevati e uccisi apposta per estrarre un colorante rosso utilizzati nei dessert, ma anche in alcuni tipi di latte di soia alla fragola, nell'abbigliamento e così via. Dunque, per non sapere né leggere né scrivere è meglio evitare le schifezze. Ma se proprio volete riempire una calza ci si può sbizzarrire con ricette vegan di biscotti, biscottini, cioccolatini, oppure con frutta secca che fa tanto tanto bene. Per l'elenco dei prodotti di origine animale e per ricette per una Befana cruelty free troverete tutte le indicazioni nel nostro sito restiamoanimali.wordpress.com. Siamo nel 2013 e nessuno può illudersi che sarà un anno di abbondanza materiale. Possiamo però sperare che sia un anno di salute. Anzi, occorre che lo sia, visti i tagli alla sanità già in atto, per non dire di quelli imminenti. E poiché la prima medicina è la prevenzione, e all'interno delle pratiche di prevenzione è cruciale l'alimentazione, ci è quanto mai prezioso questo intervento del nostro chef vegan tibetano preferito, Giuseppe Coco. Questa volta ha intervistato per voi il dottor Luciano Proietti, pediatra esperto in alimentazione vegetariana e vegana, autore del libro Figli Vegetariani, edizioni Sonda. Durante il montaggio dell'intervista ho deciso di tagliare il pezzo in cui Giuseppe chiede a Proietti se l'alimentazione vegana può garantirci la vita eterna. Mi assumo tutte le responsabilità di tale censura. L'alimentazione è uno degli elementi importanti per un equilibrio. È un po' come la benzina della nostra automobile, che se è quella adeguata il motore funziona bene, se non è quella adeguata il motore si inceppa. E quindi è importante sapere qual è la benzina giusta per il nostro motore, quindi il cibo giusto per noi. Non è solo quello che ci fa stare in salute, ci sono altri elementi che sono la psiche, il cuore, le relazioni, l'aspetto emotivo e psicologico. Un altro elemento importantissimo è l'attività fisica e poi l'aria che respiriamo. Questo. E in ultimo sicuramente la genetica. Se vogliamo diventare centenari dobbiamo sceglierci due genitori longevi, se no il rischio di morire prima è più elevato. E l'alimentazione vegana aiuta in questo, mantenersi in dati, salute? Gli ultimi dati della letteratura scientifica medica sono che il cibo più adatto all'uomo come fisiologia per ammalarsi poco è cibo di origine vegetale, cioè un'alimentazione basata sul vegetale. I dati più importanti sono quelli della letteratura americana, che coprono uno spazio di 30-40 anni e che mettono in evidenza come un'alimentazione a base vegetale riduce i rischi delle malattie più comuni al giorno d'oggi, che sono tumori, malattie cardiovascolari, osteoporosi, malattie neurodegenerative, diabete, obesità. Quindi dal punto di vista della fisiologia un'alimentazione a base vegetale è sicuramente quella più fisiologica per l'essere umano. È indicata la scelta vegana nell'età pediatrica? Dipende cosa si intende per età pediatrica. Se nei primi anni di vita bisogna considerare che il bambino non è un adulto piccolo dal punto di vista nutrizionale e anche dal punto di vista emotivo e psicologico, e quindi è un lattante, è biologicamente un lattante fino a 6 anni, e quindi fino a 6 anni dovrebbe avere un'alimentazione secondo i criteri di composizione del latte materno, che ha le caratteristiche di avere molti zuccheri, lattosio, molti grassi, pochissime proteine, niente fibra. Quindi un'alimentazione fisiologica del bambino dovrebbe essere latte materno, e se si inseriscono altri alimenti dovrebbero essere alimenti con poca o niente fibra, quindi frutta e verdura poca, molti grassi, molti carboidrati e pochissime proteine. In particolare, se valutiamo l'effetto dell'alimentazione sull'equilibrio metabolico e l'equilibrio acido-base, il cibo che crea più acidosi è il cibo di origine animale. Quindi se noi diamo non solo al bambino, anche all'adulto, ma in particolare nel bambino, un'alimentazione con proteine animali, soprattutto nei primi anni di vita, aumentiamo l'acidosi e quindi l'infiammazione, il bambino si ammala. Quindi biologicamente il bambino, finché è lattante, non ha bisogno di cibo di origine animale, ma neanche di fibra. Quindi poca frutta e verdura, eventualmente il succo della frutta e della verdura, quindi poca fibra, molti carboidrati, cereali, un po' di legumi che sono alimenti proteici, e poi latte. Ovviamente se c'è il latte materno è importante, se no bevande vegetali a base di cereali, e poi grassi, vegetali, oli, semi, sesamo, canapa. È utile l'uso di integratori in un'alimentazione vegana? In un'alimentazione vegana come la possiamo utilizzare noi nella nostra società? Decisamente sì, perché l'alimentazione vegana è a base di verdura, frutta, cereali integrali e legumi che non vengono raccolti spontaneamente nel territorio, ma vengono raccolti, trattati, puliti, igienizzati e quindi non hanno più degli elementi che in natura sono naturali, che per esempio i nostri cugini primati, scimpanzé e altro usano, in particolare la vitamina B12. Quindi è importante pensare che un'alimentazione vegana dopo l'allattamento materno può creare delle carenze di vitamina B12. Questo è il dato più importante da valutare, perché purtroppo vengono segnalati, e ho visto personalmente, casi di carenze di vitamina B12 anche molto gravi nei bambini, dovuti a una carenza nell'assunzione diretta ma anche attraverso il latte materno di una mamma che non assumeva cibo animale e che non assumeva integratori. Con un'alimentazione completa e equilibrata non ci sono assolutamente rischi di calcio, ferro, zinco, acidi grassi, assolutamente. Ovviamente deve essere un'alimentazione equilibrata. Chiudiamo con questa: perché ci ammaliamo? Il discorso sulla salute e le malattie è un discorso antico, che già i filosofi greci e l'antica medicina cinese si era posto. Quindi l'obiettivo dell'uomo è mantenere la salute. Nell'antica Cina si racconta che i medici venissero pagati finché mantenevano in salute il paziente. La malattia definisce uno squilibrio, uno scompenso biochimico, fisiologico del nostro organismo. Uno scompenso funzionale, nel senso l'organismo reagisce in modo fisiologico a un insulto che può essere esterno o interno, in termini di stress ormonale, di stress alimentare, di alterazione dell'equilibrio acido-base, dell'equilibrio del sistema nervoso autonomo, creando dei compensi metabolici che ci fanno star male, per esempio la febbre. La febbre è una reazione fisiologica dell'organismo di fronte a un'invasione di germi all'interno del corpo quando dovrebbero stare solo all'esterno. L'organismo utilizza la febbre per un'ulteriore difesa, e attraverso la febbre vengono uccisi virus e batteri. E noi di solito la abbassiamo facendo un piacere ai virus e ai batteri. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Siamo in studio con Gabriele Palloni. Ho conosciuto Gabriele anni fa in contesti completamente diversi. Sapevo che era un ottimo cuoco, sono stata ad alcune delle sue cene, squisite, molto bravo anche in condizioni estreme di disorganizzazione, in case del popolo improbabili. Un ottimo cuoco. Ciao Gabriele. Ciao. Dunque, attualmente lo possiamo dire? Attualmente sì, sì. È cuoco al Cibarius in via dei Pucci. Il locale si chiama Gabbia Matta, è un circolo. Noi come Cibarius, che è la mia società insieme a mia cugina, gestiamo il ristorante di questo circolo e si chiama Gabbia Matta. Gabbia Matta che significa? La gabbia matta era una gabbia di paglia che serviva per catturare gli uccellini. Oh mio Dio. Entravano dentro in questo fondone di paglia, impazzivano all'interno e venivano catturati. Diciamo che dovrebbe essere un po' rappresentare un po' il sistema e quello che sta succedendo nel mondo. L'intento di chi ha dato il nome dovrebbe essere questo. Io scelgo un nome un po' più allegro, magari. Sì, infatti, per un posto. Soprattutto anche perché se... in questo caso le vittime sono appunto una specie diversa dalla nostra, quindi non sono responsabili del disastro. Noi umani siamo gli unici responsabili. Speriamo che sia vegan. Come mai hai scelto questo titolo? Ci piaceva una cosa un po' ironica, anche perché insomma è un po' anche il mio stile, il mio modo. È molto carino, infatti va descritto. Nella copertina c'è Gabriele con il cappello e la giacca da cuoco, che tiene in braccio un cavolo, un bellissimo cavolo romano, e lo allatta con un biberon. Con latte di soia, ovviamente. Ovviamente. E quindi speriamo che sia vegan. In realtà, quando ti ho conosciuto, tu non eri vegano. Io sono vegetariano dal 1987, quindi ho fatto più anni da vegetariano che da carnivoro, diciamo così. Ottimo. Negli ultimi 2 anni ho deciso anche di diventare vegano anche per una scelta alimentare, proprio per provare a nutrirmi, diciamo, togliendo tutti i grassi animali. Lo consiglio a chiunque perché... L'esperimento su te stesso è andato bene. Io ho perso circa 30 kg di sovrappeso, cioè non è che sono andato sottopeso, ero in sovrappeso di infatti. Circa 30 kg e li ho persi tutti, sono in splendida forma. Stai benissimo, confermo. E quindi, niente, questo da 2 anni, ora sto continuando chiaramente con questa alimentazione, anche perché mi sento molto più tonico. Vedo che si può sposare il non nutrirsi di grassi animali con il gusto, cosa che invece... Il primo impatto con le persone quando parli di cucina vegana è quella, vabbè, mangi verdura bollita, non sa di niente, no? Insalatine. Esatto. Mentre con fantasia, con sperimentazione si possono trovare tantissimi piatti anche gustosi. Nel locale in Via dei Pucci, dove ancora lavori, hai provato a introdurre dei piatti vegani e che risposta hai avuto? Allora, è molto interessante il fatto che, per esempio, da circa, adesso sono alcuni mesi, circa 6 mesi, sto offrendo quotidianamente un dolce vegetariano, una torta normale e una torta vegana. Le torte vegane finiscono sempre. Ne fai poche? No, faccio una e una, faccio le stesse dosi, okay. Diciamo. Offro tutte e due e finiscono sempre quelle vegane, e fortunatamente finiscono anche le altre, però la richiesta è molto alta anche dei piatti vegani. E questa è un po' la mia idea e filosofia, non ho mai forzato nessuno, no? Però ho sempre consigliato di provare, di sperimentare. Infatti noi facciamo una cucina che è quasi totalmente vegetariana e vegana, e via via nel tempo i clienti stanno quotidianamente assaggiando tutti i piatti, e ci sono molti che, anche se magari non si dichiarano vegani, però mangiano cucina vegana, riconoscono che è più leggera. Il libro è diviso in più parti. Oltre a un'introduzione della nostra Alessandra Giannini, c'è una parte dedicata alle basi della cucina vegan. In questa parte ci sono anche alcuni suggerimenti per l'autoproduzione di certi ingredienti base. Poi c'è una parte dedicata agli antipasti, ai primi piatti, ai secondi, ai contorni, basi di pasticceria vegan e dolci. Perché hai dedicato tempo all'autoproduzione del seitan, del tofu, cose che teoricamente uno può trovare anche in commercio? Principalmente per 2 motivi. Uno, che questo è il primo libro che esce, diciamo libretto, un quaderno. Ora, libro, chiamarlo libro è un po' presuntuoso, infatti l'ho chiamato una collana, diciamo così, che si chiamano I quaderni di Cibarius. Quindi questa è la prima uscita e mi sembrava anche interessante dare un po' le basi. L'altra cosa anche perché mi sembra più interessante autoprodurre certi alimenti, prima di tutto per il costo, perché produrre 1 litro di latte di soia costa circa 50 centesimi, comprarlo costa il quadruplo, diciamo, se scegliamo prodotti biologici. Se non scegliamo prodotti biologici si scende ancora di più. Il seitan, poi, insomma, 1 chilo di seitan autoprodotto lo paghiamo meno di 1 euro al chilo, comprandolo fuori lo paghiamo anche 15-16 euro al chilo. E va anche a vantaggio del sapore. Vedo che fai un uso importante dell'okara. Vedo questo ingrediente in tante delle tue ricette. Sì. L'okara è semplicemente tutto ciò che rimane dei fagioli di soia dopo la produzione del latte di soia. Mi piace anche questa cosa di poter utilizzare sempre tutto, di scartare il meno possibile, anche la mia cucina io cerco sempre di riutilizzare qualsiasi cosa. L'okara, comunque la soia in generale, è un alimento versatilissimo, ci si possono fare tantissime cose. L'okara, un po' la cosa magica, è sostituisce tante di queste cose, per cui sia negli impasti, per fare un sugo per la pasta. Come mai hai deciso di scrivere un libro? Principalmente perché le ricette, specialmente dei dolci, sono quelle che mi vengono richieste di più. Io sul nostro sito pubblico spesso ricette che mi vengono richieste dai clienti. Ogni volta che mi vengono richieste, ogni tanto io pubblico queste ricette. Siccome la richiesta, specialmente di quelle vegane, diventava pesante, grande, ho detto proviamo a scrivere un libro. Pensavo che sarebbe venuto una cosa molto più piccola, sinceramente, proprio un libretto. Poi insomma siamo arrivati con le foto, le illustrazioni, tutto a più di 60 pagine. Appunto anche l'idea di poterne fare una serie. La rilegatura strana l'abbiamo fatta proprio perché potrebbero essere poi inserite in un quadernone. Se volete vedere altre cose relative alla cucina di Gabriele Palloni e per sapere qual è il posto più comodo rispetto a casa vostra per acquistare il ricettario quaderno, speriamo che sia vegan, potete digitare www.cibarius.it e scrivergli a info@cibarius.it. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Cominciare il 2013 con una recensione della nostra Beatrice Montini. Questa volta recensisce per voi un giallo animalista. Il libro di cui parleremo oggi coniuga due delle mie più viscerali passioni, quella per i gialli e quella per gli animali, umani e non ovviamente. Proprio per questi motivi, Guida il tuo carro sulle ossa dei morti della scrittrice polacca Olga Tokarczuk, edizioni Notte Tempo 2012, mi è stato regalato da una carissima amica, Doretta, che colgo l'occasione per salutare. La protagonista e voce narrante del libro è Janina, un'anziana e sofferente signora che dopo aver girato il mondo vive in un remoto paesino della provincia polacca, in mezzo ai boschi. Janina sbarca il lunario insegnando inglese ai bambini e facendola guardiana alle case acquistate per le vacanze e disabitate durante il lungo e rigido inverno. Un personaggio profondo e drammatico che impariamo a conoscere e amare pagina dopo pagina. Janina è vegetariana, ama la zuppa di senape ed ha alcune grandi passioni: fare gli oroscopi, dare nuovi nomi ad amici e nemici, tradurre in polacco William Blake, da qui il titolo del romanzo, ma soprattutto Janina ama gli animali e odia gli umani che li perseguitano e li uccidono, in primis i cacciatori. Per questo passa il tempo cercando di impedire le battute di caccia nella valle, sabotando le tagliuole e rimuovendo le trappole dal boschio. Una vita non semplice per chi vive in mezzo a compaesani mangiatori di carne, preti che predicano la caccia e il dominio dell'uomo sul creato e allevatori di volpi. Come tutti i gialli che si rispettino, il romanzo si apre con una morte sospetta, quella di un vicino di Janina, da lei soprannominato Piede Grande, un bracconiere, morto soffocato con un osso della cerva che stava mangiando. Si tratta solo della prima di una serie di morti misteriose su cui la polizia inizia a indagare, morti su cui Janina ha una singolare teoria. Si tratterebbe di veri e propri omicidi, compiuti dagli animali selvatici, decisi a vendicarsi degli uomini che li torturano e li uccidono. Pian piano la teoria si diffonde nella valle, insieme alla paura, fino al finale, ovviamente con sorpresa. Attraverso la forma del giallo, che come spesso accade è solo un pretesto, accompagnati da una carrellata di personaggi tratteggiati con originalità e passione, Olga Tokarczuk ci porta a riflettere sull'amore, sulla vendetta, sulla violenza, ma soprattutto sul rapporto tra uomo e natura, sulla responsabilità nella sofferenza che noi umani provochiamo agli altri animali e anche a noi stessi. Eccovi dunque un brano del libro, il passaggio in cui Janina, dopo la scoperta nel bosco dell'ennesimo cinghiale trucidato da un cacciatore, decide di andare alla polizia per denunciare l'omicidio. Ne nasce un'appassionata invettiva contro la caccia e contro un mondo che ha perso il senso dell'amore e della compassione. Buona lettura, da Beatrice Montini. Mentre il vigile scriveva, cercavo di placare in qualche modo i miei pensieri, ma probabilmente avevano già superato i limiti di velocità e scorrevano a rotta di collo nella mia testa, infiltrandosi, chissà per quale miracolo, anche nel corpo e nel sangue. Guardate come funzionano quei pulpiti. È il male. Bisogna chiamare le cose con il loro nome. Un astuto, perfido e raffinato male. Costruire le mangiatoie, riempirle di mele fresche e frumento, attirare gli animali e, quando sono fiduciosi e abituati, sparargli di nascosto dal pulpito, in testa. Cominciai a dire a voce bassa, lo sguardo fisso al pavimento. Vorrei conoscere la scrittura degli animali, continuai. I segni con cui si possono scrivere degli avvertimenti per loro. Non avvicinatevi, quel cibo porta la morte. State alla larga dai pulpiti. Da lì non vi predicheranno nessun Vangelo. Non otterrete le buone parole. Non vi prometteranno la redenzione dopo la morte. Non avranno misericordia della vostra povera anima, perché non avete nessuna anima. Non vedranno in voi il loro prossimo. Non vi benediranno. L'anima ce l'ha il più abietto dei criminali, ma non tu, bellissima cerve, neanche tu, cinghiale, neanche tu, anitra selvatica, né tu, maiale, né tu, cane. Ormai l'assassinio è impunito. E poiché è impunito, nessuno lo nota più. Quando passate davanti alle vetrine dei negozi, dove stanno appesi pezzi rossi di corpi squartati, che cosa pensate che siano? Non ci riflettete, vero? Oppure quando ordinate uno spiedino o una cotoletta, che cosa vi portano? In questo non c'è niente di terribile. Il crimine è stato riconosciuto come una cosa normale, è diventato un'attività quotidiana. Chiunque ne commette. Ecco come sarebbe il mondo se i campi di concentramento fossero diventati la norma. Nessuno ci vedrebbe niente di male. Così parlavo usando parole sagge. Il vigile continuava imperterrito a compilare il modulo. Questo cinghiale è solo uno, continuai, ma quell'alluvione di carne macellata che cade quotidianamente sulle città come un'apocalittica pioggia senza fine. Quella pioggia annuncia massacri, malattie, la follia collettiva. L'eclisse e l'inquinamento della mente, perché nessun cuore umano è in grado di sopportare tanto dolore. Ma che mondo è questo? Il corpo di qualcuno convertito in scarpe, in polpette, in wuster, in uno scendiletto, in un brodo di ossa da bere. Le scarpe, i divani, la borsa da spalla fatta con il ventre di qualcuno. Riscaldarsi con la pelliccia altrui, mangiare il corpo di qualcuno, tagliarlo a fette e friggerlo nell'olio. Ma è possibile che avvenga davvero questo orrore? Questa ecatombe, crudele, insensibile, meccanica, senza alcun rimorso di coscienza, senza la più piccola riflessione, che invece si concede generosamente a raffinate filosofie e teologie. Che mondo è quello in cui la norma è uccidere e causare dolore? Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@gmail.com. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.